Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Dopo il GR di Radio Popolare si ritorna in diretta con il Breakfast Club alle 7:47 minuti di questo venerdì, vigilia di weekend, venerdì 23 febbraio, tumultuoso il tempo e non solo. Riportiamo quella che invece è una situazione culturale importantissima per la nostra città e non solo. Il deposito della memoria, il monumentale, la Certosa, in collaborazione con diverse realtà, e di realtà si parla, anche se virtuale in questo caso, perché a quanto pare da tutto ciò non sfugge neanche l'eternità. E per dirla come poi andremo a presentare insieme a Roberto Martorelli, non dimentichiamo però l'aspetto di percorso culturale anche senza il supporto virtuale. Questo diventa inevitabilmente un aspetto aggiunto. Sapete bene come la penso su determinate applicazioni, visori, realtà virtuali, digitalizzazione, informatizzazione. Quindi, a quanto pare, la mia lotta contro i mulini a vento, che come ben sapete continua, anche se sono un Don Chisciotte ormai disarmato, sapete come la penso su tutto ciò e non voglio andare a dare ulteriori contenuti che possano scoraggiare per quanto riguarda la situazione che andremo a presentare. Anzi, tutt'altro, magari cercheremo in tutto ciò, e ce ne sono, dei motivi che andranno a valorizzare ulteriormente un museo a cielo aperto splendido come la Certosa. È stato presentato il 21 febbraio, per cui l'ho portato in Last Minute, ma sarà comunque un progetto costantemente presente. Dopo i tour virtuali dedicati al Museo Internazionale Biblioteca della Musica, al Museo Civico Medievale, al Museo del Patrimonio Industriale, il settore Musei Civici Bologna arricchisce l'offerta digitale, appunto arricchisce nell'ottica di avvicinare un pubblico quanto più vasto possibile alla conoscenza del patrimonio culturale. Non ne è esente, e ci mancherebbe, la Certosa di Bologna, il progetto curato da Veronesi Namioka, VN 360 gradi, la supervisione scientifica del Museo Civico del Risorgimento, e qui sentiremo le parole di Roberto Martorelli per i contenuti artistici. Insomma, quello che vedrà un percorso che si avvale di tecnologia digitale che mettono al centro l'utente e i suoi sensi in una navigazione in cui questa parola immersiva, fruibile attraverso qualsiasi dispositivo con accesso a internet o con i visori VR. Allora, io il visore VR sinceramente non ho ben chiaro, però parlando così fuori intervista con Roberto, ma come? Visore VR, adesso chi è che non ha un visore? Come che io no, però insomma sono certo che chi sta ascoltando sa bene di cosa sto parlando. Intanto, per approfondire i contenuti, poi daremo qualche specificità anche grazie all'intervista che ho portato con Silvia Veronesi per quanto riguarda Veronesi Namioka, che come ho detto darà un percorso come valore aggiunto con questa possibilità di fruizione al cimitero della Certosa. Si parte allora con Roberto Martorelli, Museo del Risorgimento a Bologna, ma la sede è per un incontro di presentazione. La sede non sarà questa, ce ne parlerà Roberto a breve, per un incontro che ci vedrà tra passato, presente ma anche futuro. Di che si tratta, Roberto, e buongiorno? Buongiorno a tutti, si tratta della possibilità da oggi di poter viaggiare quando si vuole, in qualsiasi orario, all'interno del cimitero di Bologna, patrimonio dell'UMESA, virtualmente. Ok. Quindi i musei civici di Bologna, come Museo Civico Risorgimento, abbiamo realizzato questo prodotto che consente di fare un'ampia passeggiata in una parte dell'area monumentale, perché l'area monumentale è sterminata, quindi avere un viaggio virtuale in 27 ettari è un po' complicato, quindi offriremo la possibilità di esplorare soprattutto una zona che è una delle più affascinanti del cimitero, ma che non è tra le più frequentate perché non è, diciamo così, lungo il passaggio più usato dai cittadini e da da chi va all'interno del cimitero, e si potranno vedere alcune cose interessanti. E quindi i visitatori saranno dotati di... È un viaggio che si può fare tranquillamente anche con lo smartphone, quindi ovviamente da PC viene molto meglio per le dimensioni dello schermo, e ovviamente se uno ha un visore, quindi chi gioca spesso con col computer si potrà vederlo in maniera molto più immersiva, perché il lavoro è immersivo, quindi sarà c'è proprio la possibilità di sembrare all'interno del cimitero, di spostarsi liberamente, di girare, di ascoltare audio, video e testi di approfondimento per ogni momento di questa passeggiata. Quindi queste realtà hanno anche delle collaborazioni, le vogliamo citare? È un progetto dei musei civici che è stato, diciamo così, finanziato in proprio, e sono state ovviamente coinvolte di esperti del settore, in questo caso lo studio Namioka, che ha realizzato il prodotto per noi. Sì, immaginavo ci fosse tutto ciò, perché c'è un aspetto tecnico importante, insomma, molto complesso tra l'altro. E quindi schede che possono essere visualizzate sul video che accompagna il visitatore, informazioni, voci, racconti, particolarità, se ho capito bene. Sì, sì, è proprio un'esperienza immersiva, ovviamente girando si vedono dove sono i punti di interesse a cui si può accedere a dei contenuti. È stato fatto uno splendido lavoro di, diciamo così, perché è un lavoro di rielaborazione di decine di migliaia di immagini, quindi è stato anche un lavoro per avere la luce per esempio omogenea in tutti i luoghi, quindi è un lavoro piuttosto complesso che consente proprio di sentirsi di essere lì. Ovviamente il prodotto non va a sostituzione della passeggiata, ecco, reale, ma vale come invito alla passeggiata reale all'interno del cimitero monumentale. Ci sono scadenze, ci sono orari, oppure è una cosa che chiaramente, essendo, è totalmente fruibile? È totalmente fruibile, è totalmente gratuita, e da oggi è online, quindi tutti da qui alla Cina o certo, l'Antartide possono... hanno la possibilità di questo grand tour virtuale. Se qualcuno in Antartide si vuole riscaldare con l'atmosfera del cimitero, potrà. Certo, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata. A te. Anche un arretrato nell'informatizzazione come me, ad esempio, riflettendo su tutto ciò, possiamo trovare la possibilità di annullare ogni barriera architettonica, per cui per tutte e per tutti la possibilità di visitare con questo sistema il cimitero della Certosa, il monumentale della Certosa, che per me è tutti i tempi. Beh, se pensiamo che i cimiteri moderni sono nati con l'editto napoleonico di Saint-Claude dopo il 1804, quindi per quanto riguarda barriere architettoniche ovviamente ce ne sono, e la possibilità invece di annullarle con questi sistemi, come ho detto, è importante. Visto che riesco a trovare anch'io qualcosa per portare la modalità di visita alla Certosa, certamente invitando sempre e comunque in momenti in questi spazi che per me sono al di là di questi aspetti, sono oltre tutto ciò che può essere un contenuto, e dentro di noi quello che sentiamo quando visitiamo questi musei a cielo aperto, queste enormi classi di Ateneo, queste sensazioni micro e macro che danno diverse possibilità, infinite possibilità. Allora, per quanto riguarda alcuni spazi, il monumento ai martiri dell'indipendenza, l'opera di Carlo Monari, realizzata grazie al contributo dei cittadini bolognesi, si prosegue segue nella Sala Gemina, dove è situato il Monumento Contri, importante esempio del realismo borghese post-unitario. Ci sono anche altre situazioni come il monumento a Gioacchino Murat, re di Napoli e generale della cavalleria imperiale francese, realizzato nel 1864. Uscendo dal Colombario si entra negli spazi poi del Novecento per incontrare un capolavoro di Farpi Vignoli, scolpito in memoria del sindacalista Enzo Gnudi, il primo sindaco comunista di Bologna, che fu costretto alla fuga poche ore dopo l'insediamento a causa del grave fatto oggi noto come la strage di Palazzo d'Accursio. È il 21 novembre del 1920. A pochi passi si trova il secondo capolavoro di Vignoli, Sarcofago Frassetto, in cui padre e figlio si guardano negli occhi. È stupendo questo monumento votivo tra i più belli in un eterno dialogo sul tema della morte. Poi abbiamo altre specificità di visita come la Galleria del Chiostro Sesto, come insomma tanto è un museo a cielo aperto veramente fornito di ogni realtà. In questo caso sto parlando sia certamente concreto, anzi consiglio, quasi obbligo, una visita al Monumentale della Certosa. Con questo supporto certamente, come ho detto, possono essere annullate ed evidenziate alcune specificità che sono fuori percorso abituale e valorizzare aspetti che in caso contrario avrebbero ovviamente delle barriere architettoniche importanti. Con Silvia Veronesi invece di Namioka abbiamo dato spazio alla parte tecnica, per così dire, e quindi sentiamo le sue parole. Siamo arrivati con un percorso virtuale immersivo che collega appunto queste due entità e quindi ci consente di navigare oltre gli sguardi, perché il percorso virtuale immersivo consente una scelta di inquadrature di punti di vista del tutto personale e consente anche di superare delle barriere fisiche, in quanto persone che possono avere diverse forme di disabilità possono accedere alla fruizione della Certosa Monumentale attraverso il proprio computer o anche attraverso dei visori, come vedrete qui in conferenza stampa. Ed è un percorso che dà anche informazioni dal punto di vista delle nozioni storiche di percorso. Assolutamente, una caratteristica dei nostri percorsi virtuali immersivi è proprio quello di coniugare aspetti storico-culturali con degli approfondimenti anche antropologici a quelli che sono i contenuti artistici dei siti su cui lavoriamo, per cui ci sono degli approfondimenti a cui si può accedere, sia testuali, fotografici, che abbiamo realizzato in collaborazione con il Servizio Cimiteriale di Bologna, chiaramente. Abbiamo anche previsto nel corso del progetto un intervento dove abbiamo inserito appunto l'attore Matteo Belli, che appunto dialoga. La voce. Sì, esatto, che è la voce narrante di alcuni approfondimenti appunto per visitare, certo, il percorso. E infatti è, per così dire, bruciata la prossima domanda, perché sarebbe stato proprio l'aspetto delle voci. Per cui con questa modalità avremo un valore aggiunto. Io la ringrazio tanto e le auguro una buona giornata. La ringrazio anch'io. Dalla situazione immersiva, immersiva. La mettiamo mettiamo nella lista delle parole, questa me la tatuo, immersiva. Al grande, mi permetto di dire, Roberto Martorelli, grazie a Laura Veronesi per quanto riguarda il progetto in Certosa VN 360 gradi. Certo, un lavoro dal punto di vista tecnico di Veronesi Namioka molto intenso, molto difficile, per cui bravi. Io, come ben sapete, ho delle divagazioni su tutto ciò, ma indubbiamente dei talenti della digitalizzazione che si mettono a disposizione della cultura in questo caso, per cui onore al merito. Sono o c'erano adesso, per quanto riguarda la programmazione sulla musica operistica, visto che a breve andremo in scena e andiamo sì a teatro, l'opera. Oh, vi piace l'opera? C'era un format che parlava di tutto ciò come un tocco di classico per quanto riguarda la musica classica, curato e condotto da Gabriele Evangelista, che probabilmente avremo ai nostri microfoni. Ho avuto motivo di conversazione con Gabriele perché alla Fondazione Ragghianti di Lucca, nella commemorazione del centenario dalla scomparsa di un grandissimo Giacomo Puccini, che io conosco Giacomo Puccini, parlaci di Puccini, William Piana. Allora, Pier Francesco Puccini, un mio compagno, no, era un compagno di classe delle elementari particolarmente vivace, ma è molto più importante, con tutto il rispetto per Pier Francesco, e molto, insomma, ricordiamo Giacomo Puccini, questo protagonista che ha avuto con la Turandot e con tante altre opere un palcoscenico veramente prestigioso e oltre. Ma se devo entrare in approfondimento parlando di Puccini, diciamo che ho qualche carenza, mica solo sull'opera, ma sull'opera in maniera particolare. Beh, viene in mente la Turandot, ecco. Dovete sapere che, perché ne sono rimasto così, l'intersezione tra le arti per me è qualcosa di straordinario, e quando trovo un grande artista, Puccini, compositore, che con una passione, sapete per cosa? Per la fotografia. Ecco, alla Fondazione Ragghianti, curata da Paolo Bolpagni, che saluto, curatore nell'arco e nella schiera della rubrica in mostra, già sentito più volte, mi ha contattato e dice... Giacomo Puccini aveva questa passione per la fotografia. Sono state ritrovate e portate in esposizione degli scatti per quanto riguarda il compositore lucchese, e ne parleremo a breve portandolo in scena, rubrica, come voi ben sapete, del venerdì del Breakfast Club. Tutto ciò dopo la pubblicità. A tra poco.